MySpace exclusive! E questo è il ritorno, man! Back in the day! Milano! Oh. Sai già chi c'è? Sai già chi c'è? Yeah, ascolta questo suono. Forse sai di chi stiamo per parlare. Forse questa non è una canzone. Forse questa è uno specchio. È l'ombra della terra sulla luna nella notte fonda. È la pedina del go, giunta alla sponda. Non è borgogna ma una mistura immonda. Quando lasci la tua impronta c'è chi ha già pronta la gogna. La gente disdegna la leggenda ma la sogna. Invidia chi ha fede e per questo lo svergogna. Spesso intercede tra il tuo ego e la fogna. Non ascoltarli ma grattati la rogna. Quanta gente stagna, si lagna e bigotta. Si muove solo in frotta e frottole borbotta. Non lotta, la fronte poi aggrotta. Se sa che la tua rotta non segue la condotta della flotta. Con la calotta cranica serrata tipo grotta. Ha una paura cronica, la bancarotta. La fronte scotta davanti al tuo sorriso da mignotta. Vorrei che questo disco s'aprisse e ti inghiotta. No, no, non sono vostro, no, no, non vi conosco tu. Scatti un'altra foto ed io resto nascosto. Io sono il nome giusto di una cosa senza posto. Beh, per questo resto solo, perché mi sono esposto. No, no, non sono vostro, no, no, non vi conosco tu. Scatti un'altra foto ed io resto nascosto. Io sono il nome giusto di una cosa senza posto. Beh, per questo resto solo, perché mi sono esposto. Se mi parli non mi tocchi, selezione naturale. Voi bigotti, scarabocchi, voi lontano dal reale. Con chi fotti quattro botti, fallito. Quattro blocchi di Paolotti, a te ti punto il terzo dito. Come a Sodoma e Gomorra, zio. Io zavorra, ma tu imbuto, peso forma, tu supposta, bambino. Con il rap non si gioca, ti sciroppo come coca. Sei troppo come un'oca, io col vizio sopravvivo. Tu parli per sentito dire, col diretto interessato. Pigli le mazzate, carro armato sul tuo prato. Tu giudice di cosa, tu non vali mezza cicca. Tu rimani nel tuo brodo che qualcuno poi ti impicca. La mia vita parla chiaro, la tua vita è di un infame. Non mi fotti col denaro, io non sono sotto esame. Tu rimani appollaiato, voi non date proprio stimoli. Incendio uno dopo l'altro come fiammiferi. No, no, non sono vostro, no, no, non vi conosco. Tu scatti un'altra foto ed io resto nascosto.